Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Bigio era l'amico di papà, il tesoro che tutti cercano nella vita, ma che non sempre trovano. Bigio ha rappresentato un'epoca, un simbolo, e non solo per me. Lui mi aveva dato un soprannome, io ero la passionaria. Non sapevo da dove venisse questo nome, pensavo l'avesse inventato lui, ma la parola mi diceva così chiaramente quel che pensava di me che io ne ero orgogliosissima. Sono Elisabetta Prandi, ho 44 anni, sono sposata, ho due bambini, vivo a Bergamo e sono architetto. Perché ogni storia che mi arriva, tutte quelle che mi arrivano, anche quelle che magari poi non leggo e che non utilizzo per il programma, tutte le storie che mi arrivano hanno un protagonista che compie un viaggio. Un piccolo viaggio, ovviamente, perché parliamo di un episodio della vita e quindi è una piccola storia, per lo più scritta in una pagina. Però ogni protagonista di una storia che compie un viaggio è un piccolo eroe, a modo suo. Questa cosa è una cosa di cui credo avevo già raccontato in precedenza. Il fatto che nella tradizione narrativa, e quindi letteraria, cinematografica e non solo, drammaturgica anche, tutte quante le storie possono basarsi su un'unica struttura, che è la struttura del mito, che è stata codificata attraverso delle tappe e un percorso che viene chiamato il viaggio dell'eroe. Quindi ogni eroe, ogni storia ha questo protagonista che compie un piccolo viaggio, e quindi ogni storia ha un inizio, uno sviluppo e una fine. Chiaramente possono essere più o meno complesse le storie, però qualsiasi film voi vediate, soprattutto quelli che hanno riferimenti epici, si basano esattamente su quel modello lì, che poi è simile al modello di prop della favola. Questo invece si chiama il viaggio dell'eroe. E quindi ogni piccola storia che mi arriva ha questa figura che inizia da un punto e attraverso delle avversità, grazie a degli amici o per causa di alcuni nemici, attraversa un territorio e poi torna a casa. Questo per qualsiasi racconto che arriva. E poi invece c'è un'altra categoria di racconti, quello che vi racconto oggi, ad esempio, che è la storia di qualcuno vista attraverso un'altra figura. Cioè, questo fa parte di quei racconti in cui le persone che mi scrivono parlano di sé, parlando di qualcun altro. Questo qualcun altro non è una figura casuale, è proprio una figura che appartiene a quel percorso, al viaggio dell'eroe. Si chiama il mentore. Il mentore è proprio una persona che è un archetipo narrativo che serve nella storia proprio a raccontare alcune cose. In sostanza serve ad aiutare il protagonista. Vi faccio un esempio fra tutti. Luke Skywalker di Guerre Stellari ha un mentore che è Obi-Wan Kenobi, che è quello che riconosce in lui delle cose che lui non vede. Le riconosce, gliele tira fuori e gli fa capire che la forza è dentro di lui e che quindi è un predestinato, eccetera, eccetera, eccetera. Ognuno di noi ha avuto un mentore più o meno grande, alcuni l'hanno riconosciuto e altri no. Quella però è una figura molto particolare che ci rimane attaccata. Delle volte è un parente, delle volte no, delle volte è un padre, è un nonno. In questo caso non era, nel caso di Elisabetta non era un parente, era un amico di suo padre ed era un mentore, ed era proprio quella figura che ti insegna delle cose, ti insegna ad esempio cose che tu non sai perché non le hai nemmeno viste. Nei film sono sergenti istruttori, mentori, sono professori, sono nonni, sono allenatori di pugilato. Addirittura prima leggevo su questo manuale che il più grande esempio di mentore nella storia della favola è il grillo parlante, no? Per Pinocchio. La cosa però che dice questo stesso testo è che quelli che vogliono fare i mentori nella vita devono fare attenzione, perché nel racconto originale di Collodi, Pinocchio, alla fine, per farlo tacere, il grillo parlante lo schiaccia. 349-238-6666 oppure voi siete qui @radio24.it. Attraverso il racconto di Elisabetta oggi vorrei raccontare proprio quella parte lì, la parte della vita di ognuno di noi che è rappresentata e che è raffigurata in una persona che abbiamo incontrato nella nostra vita, che di solito era più anziana, ma non per forza, però era una figura di riferimento, quella che alcuni chiamano maestro, ad esempio, che raffigura una parte di noi che non conoscevamo e che in qualche modo ce la mostra. 349-238-6666. Massimo mi scrive: sarò macabro, ma il mio mentore è stata mia madre. Lo è diventata in punto di morte quando ammise le mie qualità nei confronti del mio fratello, più affermato nella vita e nel lavoro. Loretta dice: anch'io ho avuto un mentore. Era un prete mancato, professore di filosofia e imprenditore fallito. Ah no, professore di filosofia mancato e imprenditore fallito. Non è azzeccata una, Loretta. Cioè, era un prete mancato, non era un professore, non era neanche un imprenditore. A 25 anni cazzeggiava ancora. Allora vedevo il lavoro unicamente come mezzo di sostentamento. Mi interessava altro. Convinta com'ero del non volermi piegare alla voglia di arrivare, perché pensavo che comunque tutti sono servi di un padrone. Vabbè, eccetera, eccetera, eccetera. Fu lui a dirmi: se vuoi, tu in questo settore potresti farcela, se solo lo volessi. E io all'epoca gli ridevo in faccia. Ora gli sono grata. Elisa, la nostra Elisa, la mia super professoressa di lettere delle superiori, ricordo ancora con grande affetto. Lei è stata una guida di fronte allo scoglio che ha rappresentato quei lunghissimi 5 anni. Mi ha aiutata a crescere e a migliorarmi, intervenendo anche in alcune vicende personali e difendendomi quando tutti gli altri mi davano torto. Se non fosse stato per lei, non avrei mai finito la scuola. 349-238-6666. Voi siete qui, @radio24.it. Fermatevi 5 minuti. Secondo me non avete neanche il bisogno di farlo. Pensate a una persona che in qualche modo vi ha insegnato qualcosa, senza chiedervi niente indietro, semplicemente perché non lo so perché aveva visto qualcosa in voi e vi ha aiutato a tirarlo fuori. Pensateci e scrivetemelo. 349-238-6666. Questa è la storia di Bigio, questa è la storia di Elisabetta. Mio papà aveva un amico, si chiamava Bigio, soprannome che sta per Luigi. Portava il suo stesso cognome, ma come dicevo non erano fratelli, o meglio, lo erano diventati solo perché l'avevano scelto. Bigio era un uomo non molto alto, piuttosto robusto. Direi che era più che altro compatto. Avete presente quei fisici di uomini di montagna, tutti d'un pezzo? Aveva dei lineamenti molto regolari, capelli sempre tagliati a spazzola, occhi neri profondi, vivaci, che davano ancora più risalto a un sorriso conquistatore. Bigio era un tecnico dell'Little Cedar, ma credo di ricordarlo soprattutto quando ormai era in pensione. In gioventù era rimasto orfano di padre. A soli 10 anni aveva perso anche il fratello maggiore, caduto in montagna. Aveva fatto la guerra e aveva vissuto l'esperienza del campo di concentramento. Insomma, non aveva avuto una vita facile. Eppure io, che lo guardavo con i miei occhi di bambina, vedevo in lui la persona più serena e più gentile di questo mondo. Perché sempre sorridente, sempre pronta allo scherzo. Ricordo che avevo organizzato, in una cantina del centro del suo paese, un locale che si chiamava Cania. Lo lasciava aperto agli amici dalle prime ore della sera fino a tarda notte. C'erano sempre musica, libri, vino, qualche stuzzichino con cui condire discussioni più o meno accese su varie cose, sulla vita del paese, su un libro, su un brano musicale. Spesso le serate si concludevano con degli enormi canti di gruppo a più voci, vecchi pezzi di musica tradizionale. E la gente poteva entrarci liberamente nella sua cantina. Bastava essere disposti a condividere i propri pensieri con gli altri. Io e mia sorella all'epoca bambine non ci andavamo spesso, ma quando venivamo ammesse alla cantina dei grandi, ascoltavamo con grande curiosità, con grande entusiasmo le loro parole. Me lo ricordo come l'amico del papà, si parlava di lui anche in famiglia, proprio come il tesoro, l'amico unico che pochi sono fortunati ad incontrare. Bigio aveva studiato facendo le superiori grazie a una borsa di studio. Poi aveva cominciato a lavorare, ma la sua intelligenza e la sua curiosità lo avevano reso una persona di grande cultura. Bigio adorava andare per monti, li risaliva a piedi d'estate e con gli sci d'alpinismo d'inverno. Insieme a mio padre partivano sempre all'alba per essere di ritorno a metà giornata. Diceva che i monti erano le cattedrali del Signore e quando raggiungevano la cima, seduti a contemplare la bellezza che li circondava, lui era solito pregare. Non mangiava se riteneva di non essersi guadagnato la giornata e difficilmente accettava inviti a pranzo se non si sentiva di averlo meritato in qualche modo. Era una persona limpida, sempre aperta al dialogo, colta, semplice. A ripensarci ora, forse Bigio è stato il primo uomo di cui mi sono innamorata. Era l'amore per un ideale di persona a cui tendere, scevro da qualsiasi altra implicazione adulta. Legavo talmente tanto quest'uomo alla figura di mio padre che non capivo come mai mia madre non l'amasse altrettanto. Avevo capito che la vita di Bigio con sua moglie non era serena e che i rapporti con i figli erano molto difficili, ma questa realtà per me non aveva significato. Era come se la sua sfera privata non esistesse. Lui era l'amico di papà, era il tesoro che tutti cercano nella vita ma che non sempre trovano. Lui ha rappresentato un'epoca, un simbolo, non solo per me. Mi aveva dato un soprannome, ero la passionaria, Non sapevo da dove venisse questo nome, pensavo l'avesse inventato lui. Però la parola mi diceva così chiaramente quello che pensava di me, che ne ero orgogliosissima. Sento, no, questa passione che brucia a seconda delle situazioni e dei momenti. Però caratterialmente la nascondo molto, cioè difficilmente mi lascio andare a passioni evidenti, perlomeno generalmente così nella mia vita quotidiana. Bigio è morto che avevo 14 anni. È morto di infarto dopo una passeggiata in montagna. È stato il primo grande dolore per la scomparsa di una persona che amavo. Quel dolore che ti fa sentire il bisogno di stare da solo. Un dolore da non condividere, neppure con i parenti più prossimi. Un dolore che ti fa cercare intimità silenziosa con una persona che ti mancherà per il resto della tua vita. Oggi ho pensato a Bigio, a come mi faceva sentire quando mi chiamava passionaria. E al fatto che crescendo la mia indole irruenta e battagliera è stata sempre più imbrigliata nel bozzolo delle buone maniere e nel mio volto asciutto e severo. Il fuoco della passione dentro resiste, ma ora che sono una donna adulta e matura, tento a celarlo, quasi inconsapevolmente. Ecco, oggi sento che lui mi manca, forse semplicemente perché non ho raggiunto quell'ideale di persona, e forse perché sento sempre più lontana la possibilità di incontrare uomini come lui. Sì, forse è soltanto un vincolo dell'età. Sento pesare più del solito la mancanza di quel suo sguardo che mi faceva sentire di essere capita fin nell'intimo più profondo. Non dovevo convincerlo con parole o con fatti. Lui sapeva com'ero. Lui lo sapeva. E basta. Avere una figura di riferimento come quella descritta nella storia di oggi, dico, di Elisabetta, non è così facile. Nel senso che non tutti hanno avuto la fortuna di avere un padre e poi anche qualcuno che rappresenti la tua massima aspirazione, un nonno, uno zio, ti faccia venire voglia di essere una persona migliore. Sì, una specie di mentore, qualcuno che ti sproni a migliorarti senza però essere giudicante. E lo fa così, gratis, uno che sta sempre dalla tua parte. Uno che con il suo esempio ti mostra la strada che è giusta per te e per nessun altro. A me vengono in mente un sacco di film in cui il personaggio principale è giovane e tormentato, ma c'ha qualche talento segreto e trova la forza di superare le proprie difficoltà proprio attraverso la conoscenza di un mentore. Che poi cercando in giro su libri o su internet su cosa volesse dire esattamente questa parola, cioè mentore, ho scoperto che il termine mentore viene dall'Odissea, dove c'è un personaggio che ha questo nome e che guidava Telemaco, quello che faceva il suo viaggio. In realtà però dietro la sembianza del mentore si nascondeva una dea che era Atena. I buoni insegnanti e i mentori sono entusiasmati, ho letto, nel senso originale della parola, cioè di entusiasmo, che dal greco significa entheos, cioè ispirati da Dio, come se avessero il Dio dentro di sé. Ed effettivamente, se ripenso ad esempio a Robin Williams, no? L'attimo fuggente, è proprio entusiasmante il percorso dei ragazzi della classe che si trova di fronte, che sono sempre combattuti tra la propria indole giovanile, i vincoli del mondo che li circonda e i precetti a cui sono abituati, e la tensione verso la propria liberazione personale. Capitano mio, capitano! Si sieda immediatamente, Anderson. Mi ha sentito, vero? Si sieda! Ho detto si siede! Oppure quello di prima proprio, no? Il rapporto tra Luke Skywalker e Obi-Wan Kenobi, che nell'intera saga di Guerre Stellari continua a cercare di aiutarlo per tirare fuori quella forza misteriosa che lui ha dentro e che Obi-Wan vede. Che rappresenta poi alla fine quella che ognuno di noi possiede, no? E che può essere anche oscura, magari cattiva, ma che va conosciuta e usata. E poi ce n'è un altro, sempre di Robin Williams, che tra l'altro sembra avere veramente dimestichezza con questi ruoli, nel film che forse mi ha fatto commuovere di più, perché il talento di Matt Damon in Good Will Hunting, avete presente, no? C'ha quel talento lì, che è quello di risolvere problemi matematici di altissimo livello, e quindi era lontanissimo da qualsiasi similianza con me. Ma il mentore cinematografico che preferisco però è Sean Connery in un film di Gus Van Sant. Il film si chiama Scoprendo Forrester ed è la storia di Jamal, che è uno scrittore giovane, un ragazzo giovane che scrive con talento e conosce quest'anziano vincitore di un premio Pulitzer che si è ritirato in casa a leggere e invecchiare male. Il film si svolge a New York. Il ragazzo è un nero di estrazione sociale molto bassa, è appassionato di basket ed è sempre a un passo dal diventare uno spacciatore di crack. È un film che guardatelo perché ti tocca in qualche modo, quindi non vi racconterò un minuto di più. Io un mentore vero e proprio non ce l'ho avuto, però ho letto un po' di libri, ho visto un sacco di film. E se non l'avessi fatto, magari non sarei diventato uno spacciatore di crack, quello no. Ma sarei rimasto un po' più triste di quello che sono. Magnifico, li amo quando è così, perché avevo appena citato tra gli altri l'attimo fuggente e subito è arrivato un messaggio che dice: sì, certo, un mentore tipo Robin Williams nell'attimo fuggente, un disastro, si facessero una teglia di cazzi loro. Però non si firma, ma il messaggio che vince su tutti è questo oggi. Il mio mentore è stato ed è tuttora mio padre, che è seduto di fianco a me in auto in questo momento ad ascoltarti. Lui che senza accorgersene è riuscito sempre a guidarmi, sostenermi ed aiutarmi. Il messaggio non è firmato, però la sensazione è che da qualche parte in giro per l'Italia in questo momento ci siano due persone, un padre e un figlio, in macchina, che forse hanno capito che in qualche modo hanno parlato tra di loro. 349-238-6666, mio marito, tutti i giorni da 30 anni è il mio mentore. Davide invece dice: sono i miei figli. Invece il mentore però di cui abbiamo parlato oggi si chiamava Biggio e la persona che da lui ha capito qualcosa è Elisabetta. Pronta Elisabetta? Ciao, ciao Matteo. Tutto bene Elisabetta? Sì, ho sentito una voce improvvisamente quasi tumulata, dove sei? No, sono a casa mia. Sei a casa. Che, mi ricordi, tu sei, scusami, di Bergamo o di Brescia? Perché... Bergamo. Bergamo, giusto. Che come ha scritto giustamente una persona sul profilo Facebook del programma l'altro giorno, si scrive un sacco a Bergamo, perché ci sono una marea di racconti che arrivano da lì. Come mai? Evidentemente sì, non so come mai. Forse parliamo poco e scriviamo di più, boh. Ah, questa potrebbe essere... potrebbe essere una cosa. Senti, tu sei architetto e non sei al lavoro, sì. Però adesso Elisabetta? No, infatti oggi pomeriggio casualmente sono a casa. Ah, non te lo sei presa libera apposta? No. Che architetto sei? Lavoro in un ente pubblico, sovraccomunale, e mi occupo di lavori pubblici. Cioè, quindi strade? Sì, prevalentemente piste ciclopedonali, sistemazione di bike dal peggio. Ma della tua zona? Ma vanno ancora di moda le piste ciclabili? Ormai 10 anni fa, no? Se ne parlava, adesso poi quanti le fanno le piste ciclabili? Beh, dove sono state fatte forse 10 anni fa, dove le stiamo ancora facendo, vanno ancora di moda. No, orgoglio dell'architetto. Eccola qua. Senti, torniamo un attimo a Biggio. Quanti anni fa è stata l'ultima volta che l'hai visto? Cioè, tu avevi, quando è mancato, avevi 14 anni. Quindi sì. 30 anni fa esatti. Sì. Perché per non dire la tua età ne hai 44. Per non dirla, sì. Senti, e lui rimane comunque una figura di riferimento, nonostante tu abbia incontrato delle altre persone... Sì, beh, chiaramente non è l'unica, però quel giorno mi è venuto in mente di scrivere di lui e certo, è comunque un ricordo molto forte, una persona che aveva una personalità molto forte e quindi ha lasciato un'impronta, insomma, quello sicuramente. Senti Elisabetta, un'ultima cosa e poi ti lascio andare. Sì. Tu hai, ne parli chiaramente, c'è una forma di innamoramento nei confronti di una bambina, chiaramente, però nei confronti di una persona adulta. E però sì. Ne parli ancora come una figura importante. Tu sei sposata? Sì, sì, sono sposata. Tuo marito sa dell'esistenza di questa persona che 30 anni fa ti ha colpito così? Oppure, nel senso che io un po' ne sarei geloso di una figura come questa. No, perché... No, assolutamente, perché essere gelosi, no? Anche di mio marito No, aspetta, non vale, non è che puoi partire adesso con la storia che anche tuo marito, perché altrimenti davvero sento un rumore sugli specchi. Sono rilassatissima rispetto... Cosa ti ha insegnato tuo marito, Elisabetta? Dai, ti do veramente, te la alzo così la schiacci. Oddio, e poi... cosa mi ha insegnato mio marito questa... No, ma non va bene così, non va bene così, devi... semplicemente dovevi partire diretta. Senti, devo dare la borsa, magari ci pensi e mi scrivi un SMS. Va bene. Grazie mille per la telefonata e per il racconto. Ciao, buona giornata, grazie. Voi siete qui. È una bella donna Elisabetta, porta decisamente bene i suoi 44 anni. Nella foto che mi ha mandato è in montagna ed è lungo un sentiero. C'è anche dell'acqua che scorre lungo il sentiero. Vale l'acqua, Bonini, l'acqua che scorre lungo il sentiero non vale mica. Ah, non è un sentiero allora, sarà un ruscello, banalmente. È abbracciata ai suoi due figli, che sono un bambino e una bambina. Deve essere estate perché sono in pantaloni corti e maglietta, hanno su tutti le pedule, pedule, le scarpe da montagna, e un bello zaino in spalla. L'unico che non si vede nella foto è il marito. 349-238-6666 Oscar scrive: è senza dubbio mia moglie. E non è la prima che dice senza dubbio mia moglie, anche mio marito è il mio mentore. E mi domandavo questa cosa: la figura del mentore non è però così erotica, no? Cioè, il mentore è uno che ti dà dei consigli, a cui vuoi un bene infinito e da cui ti aspetti tanto. Però poi, cioè, no? Perché non nomina mai le canzoni e gli interpreti? Luciano, non le nomino perché, come giustamente mi suggeriscono, non siamo a Disco Ring, ma soprattutto perché le scriviamo sul sito, cioè sulla pagina di Voi Siete Qui, sul sito di radio24.it. Federico da Vicenza: il mio mentore è stato sicuramente Fabio, il mio primo maestro clown. La mia maestra alle elementari, la generalessa, è stata lei, le devo tutto. Questa donna mi ha insegnato a pensare. La laurea, il master, tutto grazie a lei. L'ho vista di sfuggita dopo 30 anni e l'ho riconosciuta, e lei senza esitare mi ha chiamato per nome, quindi l'ho abbracciata e l'ho ringraziata per esserci stata. E prima, tra l'altro, prima di andare in onda ne parlavamo con Tiziano, con il fatto che queste figure sono figure fondamentali. Poi, tra l'altro, aspetta un attimo prima di andare qui, perché c'è qualcuno che mi scrive: io non le vedo tutte queste figure di mentori, sarà che forse o non vedo bene o sbagliamo il termine. Questa roba però del non abbiamo più maestri, abbiamo ucciso tutti i maestri, io, secondo me, è veramente una menata, nel senso che è facile ed è anche consolatorio barcollare in giro dicendo ma non abbiamo maestri, nessuno ci ha insegnato niente. Forse diciamo che i maestri uno se li trova, se ha voglia, o li va a cercare, oppure ne fa senza. Però poi da qui ad usare giustificazioni riguardo a generazioni sbandate che non hanno maestri, questo mi sembra davvero un'altra storia. Comunque, appunto, dicevamo prima con Tiziano che alla fine arriva sempre un momento in cui il tuo mentore lo devi uccidere, in senso lato, ovviamente, perché altrimenti rimani lì, no? Cioè, altrimenti rimani lì a crogiolarti con la spada laser di Luke Skywalker. E invece io ho un amico che ha 40 anni e per il suo compleanno l'anno scorso si è fatto regalare la spada laser di Luke Skywalker. Forse lui ci farei un pensierino. Spesso dobbiamo superare l'influsso dei nostri migliori insegnanti per passare a una fase successiva della nostra crescita. Questo è sempre un pezzo di questo manuale, di questo trattato, che si chiama Il viaggio dell'eroe. Se avete in mente di scrivere qualsiasi cosa o di immaginare qualsiasi storia, vi consiglio di leggerlo. Delle varie mail che sono arrivate oggi, queste, diciamo, le considero sempre come delle seconde storie, no? Cioè, c'è una storia principale nella puntata, che in questo caso era quella di Elisabetta, e quando pubblico poi sul profilo Facebook del programma più o meno quello di cui parlerò, arrivano delle mail, arrivano dei messaggi, che sono veramente delle storie, magari più piccole, più concise, perché uno le scrive al lavoro, ma sono veramente delle seconde storie. Ed è il caso di questa mail, che non è firmata, o meglio, è firmata UFMMDS. Comunque, chiunque sia, parla di un mentore, parla del nonno. Ciao Matteo. Vedi, mi ha sempre fatto uno strano effetto chiamare le persone che hanno il mio stesso nome. E mio nonno paterno non solo aveva il mio nome identico, cosa abbastanza in uso in certe famiglie, ma soprattutto io e lui festeggiavamo il compleanno lo stesso giorno. Vedi, io penso che era ovvio, doveva esserci qualcosa in più del normale rapporto tra nonno e nipote. In primis perché il carattere del marchese, perché così dovevo chiamarlo in pubblico, il marchese, era quello che più mi affascinava in una persona. Un po' arrogante, un po' autoritario. Nessuno lo contraddiceva, nessuno gli teneva testa in una discussione. Sembrava che mio nonno accettasse solo le mie idee. Quando da bambino mi portava a passeggiare per il centro di Parma, eravamo entrambi orgogliosi l'uno dell'altro, chiaramente senza dircelo. E io, quando incontravo amici suoi ovviamente, io mi sentivo vicino al signore più elegante e più brillante nella discussione che conoscessi. E lui si vantava di quell'educato e adorabile bambino, che non potevo far altro che essere in sua presenza, ovviamente. Quando mi chiamava ogni volta con nomignoli diversi, ero sempre sull'attenti, con una gioia di essere utile al nonno, che avrei volentieri modificato il mio nome con quello con cui venivo battezzato in quel momento. Un giorno mi chiamò in disparte, lo ricordo bene, avevo 25 anni forse, e mi disse così: Ascolta, Dio non ci vuole eterni, quindi tra non molto toccherà a te andare avanti. Vai avanti così, che va bene. Ricordo ancora quel giorno e non so descrivere la sensazione che mi lasciò. Ero distrutto. Fatto sta che il marchese è rimasto con noi altri 10 anni e per almeno altri 8 era sempre stato il solito scorbutico. Uscivamo anche a cena da soli e ai vecchietti che lo fermavano mi presentava come il suo primo nipote e ai miei amici presentavo con orgoglio il mio mentore. Contento quello che prima mi chiedeva di dire i brani, allora facciamo subito questo disannuncio. Questo pezzo si chiama Light Bulbs, così fa veramente schifo. Mi alzi un attimo il volume, Paolino, ok. Questo pezzo si chiama Light Bulbs e il cantante si chiama Ben Ottewell. Non è cambiato niente, faceva schifo uguale. È l'ex cantante dei Gomez, mi dice Bonini. Beh, chi se ne frega anche. C'è un mentore in molti dei nostri prossimi, se lo vogliamo cercare. Giorgio, grande Giorgio. Mi piace con quelli positivi, che comunque c'è sempre qualcosa di buono. Sempre in giro. No, non c'è sempre qualcosa di buono. Il mio maestro delle elementari era il mio mentore, un uomo straordinario, un comunista cazzutissimo che mi ha insegnato la voglia di imparare, di essere curioso e anche di fare l'uncinetto. Stefano, non sarà un mentore, ma di sicuro fonte di ispirazione Lady Gaga. Non sto scherzando. Abbiamo degli ascoltatori che mi sorprendono ogni volta. Mi sorprendono e anche un po' si fanno i fatti miei. Ma te quando fai un figlio? Ma è te quando ti fai invece? Cinzia, professoressa di architettura a Madrid, mi ha mostrato alternative di vita. Il suo coraggio, la forza tipicamente messicana. Edera. C'è una forza tipicamente messicana. Sì, effettivamente. Non lo so. Non conosco messicani, non direttamente. Tranne Paco Ignacio Taibo II, che ho incontrato una volta in treno chiedendogli un... Non ve l'ho raccontato. Ve la racconto un'altra volta questa, perché mi imbarazza un po'. E poi Paco Ignacio Taibo II vive in Messico, ma è spagnolo, in realtà. Comunque, chi se ne frega anche di questo. Il mio mentore fu Primo Levi. Lo conobbi all'università. Ancora ora la sua morte mi provoca dolore. Mi insegnò la bellezza del lavoro quotidiano. Baci Carmen. Vabbè, ve la racconto. Ho incontrato Paco Ignacio Taibo II su un treno tornando da Roma. Era lui e la moglie ed erano giganti tutti e due. Io l'ho visto, poi mi ero ricordato che era ospite a un programma televisivo. E c'è un mio carissimo amico Davide che adora Paco Ignacio Taibo II e mi ha fatto leggere i suoi libri. E io ho preso il coraggio a due mani, mi sono fermato e gli ho detto nel mio spagnolo: Paco, tengo un amico chi te ama. E lui ha riso, la moglie anche, e mi ha fatto una dedica. Mi ha detto come si chiama? Davide. A Davide con simpatia, non mi ricordo. P.I.T. II, scritto proprio con le iniziali. Io ero orgogliosissimo, siccome eravamo in treno, l'ha scritto in qualche modo, sono tornato da Davide e ho detto: guarda Davide, guarda cosa ti ho regalato, ho incontrato Paco Ignacio sul treno e ti ho fatto fare questa dedica. Lui mi ha detto: guarda, grazie mille, sono felicissimo. Certo, scritto così avrebbe voluto scriverlo chiunque. Però qualsiasi cosa potrebbe averla scritta chiunque. Come una volta che in Messico, per rimanere lì, la mia guida mi disse: vuoi vedere una cosa che non ha visto nessuno? Ti faccio vedere la foto del subcomandante Marcos senza passamontagna. Ma chiunque può essere il subcomandante Marcos senza passamontagna. Va bene, siamo andati in un'altra direzione. Grazie però a tutti quelli che hanno reso possibile la puntata anche di oggi. Tiziano Bonini, Stefano D'Andrea, Paolino Corleoni e Margherita Ina. La storia di oggi era quella di Elisabetta. Parlava della figura del mentore. Quella di domani invece è la storia di Elisa e racconta di una rinascita. Le montagne comunque erano sempre lì, anche solo una foto attaccata alla parete o una rivista da leggere. È arrivato finalmente il lavoro e gli orizzonti si sono allargati, non più solo le Alpi, ma le Ande, l'Himalaya, i deserti. I viaggi solo sognati, piano piano, sono in parte diventati realtà. 2 anni fa, però, la diagnosi. Il medico aveva pronunciato le fatidiche parole.